Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Al Consiglio europeo è in atto uno scontro politico sulla riconferma del presidente, il polacco Tusk. Il suo paese è contrario, favorevoli molti altri. Attesa per la Banca Centrale Europea, oggi potrebbe annunciare una riduzione degli stimoli monetari, pressioni su questo fronte dalla Germania. François Hollande starebbe pensando a ricandidarsi in extremis, intanto nei sondaggi Macron supera la Le Pen anche al primo turno. Abusi su una bambina, 17 anni per la sentenza definitiva, ma lei nel frattempo si è tolta la vita e il colpevole è tornato nel suo paese. Minaccia al sindaco di Peschici, nel Foggiano, e tra i firmatari di un documento per il ripristino della legalità nell'area del Granghetto di Rignano. Champions League, dopo l'incredibile rimonta del Barcellona, la Juve spera, parla Allegri, il match di ieri ci insegna che nulla è scritto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, e c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale poi trasmetteremo in diretta il nostro giro per l'Italia a partire dalle 13.15. In apertura dunque il Consiglio europeo. Prima ancora che inizi il vertice europeo di oggi e domani a Bruxelles, sono scintille fra Varsavia e Berlino, oggetto del contendere la rielezione di Donald Tusk al Consiglio europeo. Angela Merkel questa mattina al Bundestag ha detto di vedere la sua rielezione come segno di stabilità per l'Unione europea. Sono contenta, ha aggiunto, di continuare a lavorare con lui. Di tutt'altro avviso la Polonia. Tramite il ministro degli esteri polacco, Varsavia ha fatto sapere di essere contraria e ha minacciato di non firmare le conclusioni del vertice nel caso di una conferma. Al centro del Consiglio europeo di oggi anche i temi economici dell'immigrazione. Si parlerà delle tensioni a livello internazionale tra le nuove tendenze protezioniste e isolazioniste rafforzate dall'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. L'Europa, ha anticipato Merkel oggi, deve mantenersi aperta ma contemporaneamente contrapporsi a pratiche protezionistiche sleali. La cancelliera ha poi ricordato che l'Europa a Roma festeggerà i suoi 60 anni, che sono stati di pace, di benessere e di stabilità. Troppo spesso, ha aggiunto, si fa dell'Unione un capro espiatorio, mentre gli Stati membri dovrebbero fare autocritica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è una giornata quella di oggi che i mercati stanno attendendo da qualche giorno, perché la Banca Centrale Europea potrebbe valutare una riduzione degli stimoli. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buongiorno. Sì, buongiorno. La discussione è in corso dentro il Consiglio della Banca Centrale Europea, però non è atteso per oggi nessuna decisione di cambiamenti della politica monetaria. Ricordiamo che a dicembre la BCE ha deciso di ridurre gli acquisti mensili di titoli, il cosiddetto QE, da 80 a 60 miliardi di euro. Non credo che voglia cambiare rotta di nuovo. È vero che nel frattempo c'è stato un rimbalzo dell'inflazione che ha addirittura nell'ultimo mese superato l'obiettivo della BCE al 2% nell'eurozona, al 2,2% addirittura in Germania, e naturalmente è dalla Germania che si levano le voci più forti per una riduzione dello stimolo. Però l'aspettativa è che oggi il Consiglio non si muova, piuttosto che cominci una discussione che può durare diversi mesi. Draghi, come al solito, dovrà essere decifrato nelle sue parole, sia della dichiarazione introduttiva che delle risposte ai giornalisti, e poi si vedrà. Però credo che cercherà di tenere appunto una linea fra decantare il successo del QE e i miglioramenti registrati nell'eurozona sia sull'inflazione che sulla crescita, dall'altra parte sostenere che dello stimolo c'è ancora bisogno, almeno fino alla fine di quest'anno. Dunque, vedremo come andranno le cose. Intanto ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, che ci aggiornerà nell'arco della giornata e naturalmente appena avremo le parole di Draghi, ve ne daremo conto a proposito di Europa, ci chiede un ascoltatore al 349-238-6666, ma perché la Polonia è contraria a Tusk? Semplicemente perché Tusk è di un altro partito rispetto al partito adesso al governo in Polonia, e dall'altra parte i più maligni dicono perché temono un ritorno di Tusk in patria e il fatto che poi si ricandidi, quindi c'è una guerra politica in corso in questo momento che va al di là appunto della nazionalità del Presidente del Consiglio europeo. Abbiamo parlato di economia, veniamo alle vicende economiche italiane, in particolare quelle che riguardano la manovra e le dichiarazioni di Renzi. Matteo Renzi dice no all'aumento dell'IVA perché, spiega, sarebbe un errore in questo momento e mostra scetticismo sul taglio delle tasse sul lavoro, due misure che potrebbero entrare nella manovra del governo Gentiloni. L'idea di sforbiciare il cuneo fiscale sul lavoro lascia dubbioso l'ex presidente del Consiglio. La misura varata da Prodi con la finanziaria 2007, argomenta dal salotto di Porta a Porta, non funzionò. Nonostante lo stop, Renzi chiarisce che con Gentiloni c'è pieno accordo e tutti, dice, siamo impegnati a sostenerlo fino a febbraio 2018, scadenza naturale della legislatura. Ma non si possono passare questi mesi a parlarsi addosso, puntualizza alla vigilia della kermesse organizzata a Torino per riconquistare la segreteria del PD. La tre giorni renziana al Lingotto è la prima tappa della campagna congressuale in vista delle primarie del 30 aprile, dove l'ex presidente del Consiglio dovrà battersi con gli altri due candidati alla segreteria, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che si dice pronto a lasciare il dicastero di via Arenula in caso di vittoria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sta facendo discutere in queste ore lo sconto fiscale per i super ricchi che si verranno a installare in Italia, un forfè, come ormai sapete, da 100.000 euro. In realtà si tratta di un provvedimento che esiste già in altri paesi, ma come funziona esattamente? Beh, sentiamo. Per la prima volta l'Italia entra in pieno nella competizione fiscale internazionale, una gara per accaparrarsi i contribuenti ad alto reddito stranieri, non solo emiri ma anche calciatori e cantanti, non italiani però e nemmeno cervelli in fuga. Una gara iniziata ben prima della Brexit nei paesi europei ed extraeuropei. Per i paperoni che vengono in Italia non solo per lo sconto fiscale e che pagano da almeno 9 anni le tasse e risiedono in paesi stranieri, basterà pagare una tassa forfè di 100.000 euro l'anno. Ma si tratta davvero di una rivoluzione? E si tratta davvero di una flat tax? Si chiede l'avvocato Antonio Tomassini, esperto fiscale del Sole 24 Ore. La flat tax è un'altra cosa. Se hanno dei redditi in Italia, pagano le tasse come le persone normali. Scatta il paragone con la cosiddetta flat tax degli altri paesi competitor fiscali. Paesi comunitari come Portogallo e Malta, da un po' più di tempo il Regno Unito, no? Il regime dei red no dom, che adesso si sta un po' inasprendo, Monte Carlo e della Svizzera. Anche se tutti giocano sullo stesso piano, in Italia rimane un nodo. Leo Messi, che viene a giocare in Italia, sugli stipendi, chiamiamoli così, che percepirà dalla società di calcio italiana, Milan, Inter, Juve, Roma, che lo ingaggerà, pagherà le tasse in Italia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi abbiamo parlato prima delle vicende del Partito Democratico. Ebbene, ci sono da registrare oggi le dichiarazioni di Matteo Orfini, che è reggente del PD, e che riguardano le questioni napoletane, delle quali ci siamo in parte occupati nelle settimane scorse, ossia i tesseramenti sospetti. Orfini propone in sostanza di azzerare il partito, azzerare i vertici del partito a Napoli. Azzerare tutto può essere utile anche per chiedere a gli elettori che non credono più in noi di tornare a prendere per mano questo partito, così appunto Matteo Orfini, reggente del Partito Democratico. E veniamo invece al centrosinistra francese, la situazione del centrosinistra francese, dove sembra palesarsi l'ipotesi che il presidente François Hollande si ricandidi in extremis. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno Simone, proprio così, sono voci che ha raccolto il quotidiano Le Parisien, secondo il quale appunto Hollande ha raccolto nella massima discrezione le 500 firme di patrocinio necessarie, ma scenderà in campo solo se Macron calerà nei sondaggi e il vincitore delle primarie del la sinistra, Hamon, continuerà a rimanere così basso nelle intenzioni di voto, siamo attorno al 13%, quindi entrerebbe solo in funzione anti Le Pen. Macron, lo ricordiamo, è un ex ministro dell'economia nel governo di Hollande, che ha lasciato l'incarico l'estate scorsa per fondare il movimento centrista ed europeista En Marche. Per le prossime ore era previsto l'annuncio della destra del Partito Socialista di schierarsi con Macron, quindi con qualcuno al di fuori del partito. Vedremo se queste indiscrezioni cambieranno qualcosa. L'unica cosa che appare certa è la lacerazione di questo partito, che è diviso tra due e forse ora tre candidati. Infine i sondaggi, perché ovviamente appunto la candidatura di Hollande dipende molto da questi. Oggi per la prima volta Macron supera la leader del Front National Le Pen nelle intenzioni di voto per il primo turno, mentre è saldamente in testa per il secondo turno, perché i francesi, se ci fosse un testa a testa Macron-Le Pen, dicono che al 65% voterebbero Macron e solo il 35% preferirebbe comunque Le Pen. Per ora è tutto. E grazie dunque alla nostra Laura Bettini per questo aggiornamento. Adesso ci spostiamo in Siria. Gli Stati Uniti hanno dispiegato una batteria d'artiglieria dei Marines in Siria per sostenere l'offensiva a Raqqa. Servirà a distruggere le postazioni fortificate dagli islamisti nel perimetro esterno alla città, in modo da consentire alle forze curdo-arabe, che hanno lanciato l'offensiva lo scorso autunno, di avanzare verso il centro. A riprova del salto di qualità dell'impegno americano negli scenari della guerra all'ISIS, la prossima spedizione in Kuwait di un contingente con il compito di tenersi pronto ad entrare in azione dove richiesto. Manovre che vanno ad aggiungersi al recentissimo dispiegamento di forze nei dintorni di Manbij, in quella che il Pentagono ha definito una missione allo stesso tempo di deterrenza e rassicurazione. Intanto, in un bombardamento aereo su una località ad est di Raqqa, Matab, sono morti diversi civili e tra loro anche bambini. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata uccisa Antonella Lettieri, una donna di 40 anni, il cui cadavere è stato trovato questa mattina a Ciro Marina da un parente. La donna indossava il giubbotto ed aveva accanto il telefono cellulare. I carabinieri stanno vagliando la posizione di alcune persone. Lavorava come commessa in un negozio di alimentari gestito da una parente. Non si esclude l'uccisione da parte di un amante, quindi un femminicidio. E non si esclude possa essere stato un gesto volontario lo schianto in auto avvenuto a Gambellara, nel Vicentino, dove un uomo è morto insieme alla moglie in uno scontro con un camion. I due si stavano separando e si ipotizza appunto che l'uomo possa essersi appunto schiantato volontariamente contro questo camion insieme alla moglie. Ci spostiamo nel Foggiano, a Peschici, dove del Foggiano ci siamo occupati molto in questi ultimi giorni, a partire dallo sgombero del cosiddetto granghetto di Rignano a San Severo, passando per l'allarme criminalità che ha riguardato la zona, i colpi di pistole esplosi contro una camionetta della polizia. Arrivano minacce al sindaco di Peschici, Francesco Tavaglione, che è in linea con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa ha trovato davanti a casa sua, mi sembra di aver capito? Davanti a casa, un ordigno fabbricato in maniera rudimentale, ovviamente già esploso, poi dalle indagini fatte dai carabinieri si è risaliti alla composizione dell'ordigno stesso. È stata usata una polvere, un polvere nera, mi è stato riferito dai carabinieri che è una polvere abbastanza pericolosa. E lì accanto, sempre sull'uscio di casa, era un accesso secondario questo qua, è stata rinvenuta una cartuccia calibro 12 che è usualmente usata per la caccia ai cinghiali. Questa cartuccia inesplosa lasciata lì come ulteriore segnale, come segno evidente di indicazione verso chi lavora. Certo. Tranquillamente, a chi cerca di fare il proprio dovere ogni giorno. Senta, sindaco, lei è tra i firmatari, no, di un documento appunto sottoscritto da molti sindaci per il ripristino della legalità nella zona. Le vicende le abbiamo ampiamente raccontate nelle scorse ore. Beh, veramente sono il primo firmatario di quel fa parte della fondazione Vassallo del sindaco Pescatore, che è una fondazione che si occupa appunto di problematiche legate alla criminalità, e quindi cura in maniera particolare tutti questi aspetti. A settembre del 2016 abbiamo ospitato la festa nazionale, che è la festa della speranza, che la fondazione Vassallo organizza ogni anno. Quindi è un comune in prima linea per questi aspetti, per questi problemi. Tra l'altro che va protetto, va tutelato, va amato, e quindi è necessario che ognuno si impegni quotidianamente per far sì che possa essere anche vivibile in maniera civile. Io la ringrazio, grazie al sindaco di Peschici Francesco Tavaglione, al quale auguriamo evidentemente buon lavoro, in bocca al lupo, e vi diciamo come sempre in questi casi che siamo con voi. Era un piccolo anticipo, se volete, del nostro giro per l'Italia, e prima però di andare a sentire cosa succede sulle strade, andare al nostro giro per l'Italia che sarà anche in diretta come ormai ogni giorno sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, ho in studio con me Carlo Genta. Carlo, per parlare un GR Barcellona, un GR Barcellona e un GR Juve che dopo aver visto il Barcellona ci spera. Un giro a Barcellona e Juve che dopo aver visto il Barcellona si sarà impaurita, devo dire, perché vabbè, quello che è successo ieri sera non ha alcun senso. Sta tutto racchiuso nella conferenza stampa di Luis Enrique, tecnico che si è già dimesso dal Barcellona, sì, come sappiamo, ha già lasciato l'incarico per l'anno venturo. 4-0 a Parigi. Ovviamente avevamo tutti cantato il De Profundis per il grande Barça che fu, invece questa remontada 6-1 è finita la partita, con il Barcellona che ha segnato i tre gol che servivano, perché c'è stato sul 3-0 c'è stato il gol di Cavani che aveva praticamente chiuso di nuovo la sfida. Negli ultimi 8 minuti è successo di tutto e il grande protagonista è stato Neymar, punizione, rigore trasformato e poi l'assist per il ragazzino Sergi Roberto, che è al 51esimo di questa gara, quindi ben oltre il 90esimo, ha dato il passaggio del turno al Barcellona. E Luis Enrique ha detto: questo è uno sport per pazzi. E non può che avere ragione. Ora vediamo come saranno i sorteggi, però chiaramente il Barcellona torna prepotentemente in corsa. C'è un precedente simile che i tifosi milanisti ricorderanno oppure avranno rimosso dalla memoria. Nel 2004 il Milan, che era un grande Milan con Shevchenko, con Kakà, con tutti i grandi protagonisti dell'epoca, vinse 4-1 con il Deportivo La Coruña e perse 4-0 il ritorno in Spagna. Evidentemente Spagna, terra delle remontate. Allora, grazie Carlo, ovviamente è tutto materiale per tutti i convocati, a partire dalle 14 noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, mentre siamo già in diretta alla nostra pagina Facebook, e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e partiremo da questa vicenda di questi ragazzini, di questo ragazzino che ha perso la vita in Calabria su un binario. Si sospetta, anche se naturalmente non ci sono ancora certezze, che tutto questo sia avvenuto perché volevano farsi un selfie sui binari prima che passasse il treno, una sorta di sfida alla morte che ha provocato già due vittime nel 2016. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati del Consiglio Europeo, dove è in atto uno scontro sulla riconferma del presidente, il polacco Tusk. Ci abbiamo parlato dell'attesa per la Banca Centrale Europea, che oggi potrebbe annunciare o quantomeno parlare, far intuire che ci sarà una riduzione degli stimoli monetari. Abbiamo parlato di François Hollande, che starebbe pensando a ricandidarsi, e abbiamo parlato anche con il sindaco di Peschici, che, come avete sentito, è stato minacciato e tra i primi promotori della legalità in un'area del Foggiano della quale spesso ci siamo occupati nel nostro giro per l'Italia. Giro per l'Italia che dunque inizia adesso, e inizia tanto sulle frequenze di Radio 24 quanto sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno in diretta. Tra un attimo andremo ad occuparci e ci sposteremo in Calabria per parlare della vicenda di questo ragazzino di 13 anni che è morto investito da un treno. Ma prima, nel nostro giro per l'Italia non siamo riusciti a trovare un interlocutore su questo, però fatevi riassumere la vicenda, perché questa è una vicenda che ci sta molto a cuore e che, devo dire la verità, a me personalmente fa imbestialire, ed è un tema che riguarda la lentezza della giustizia. Vi ricordate che nelle settimane scorse ci siamo occupati della storia di un processo finito in prescrizione per una persona che aveva abusato su una bambina, un processo durato 20 anni complessivamente e che si è, ed è finito in sostanza con l'impunità del colpevole, una vicenda che arrivava da Torino, nella quale lo stesso giudice aveva chiesto scusa a nome dello Stato. Ebbene, sempre da Torino o a cavallo tra Torino e Roma arriva quest'altra vicenda, una vicenda nella quale ci sono voluti 17 anni, ed è una vicenda simile a questo punto, ci sono voluti 17 anni per arrivare ad una sentenza definitiva che riguardasse appunto sempre degli abusi su una bambina, abusi che si sono protratti per 3 anni, e questa bambina adesso non c'è più, perché durante la sua adolescenza si è tolta la vita, probabilmente anche a causa del trauma subito. Dopo 17 anni arriva questa sentenza, 20 giorni prima, appena in tempo per evitare la prescrizione, non completamente, perché la sentenza di condanna riguarda solamente gli ultimi 8 mesi di abusi, perché gli altri anni di abusi sono finiti in prescrizione, e questa persona, la persona che ha abusato di questa bambina, che era lo zio, non finirà probabilmente mai in carcere, perché in questo momento è tornato nel suo paese, il Perù, e sarà difficile recuperarlo. Ed era una storia che ci tenevamo a raccontarvi in apertura del nostro giro per l'Italia. Così va il paese. Succede questo invece, prima tappa con un ospite del nostro giro per l'Italia è appunto la Calabria, dove, come vi abbiamo raccontato, come avete sentito anche dai nostri giornali radio, c'è stato un bambino, un ragazzino di 13 anni che è morto investito da un treno. Le indagini sono in corso, quindi non si sa esattamente se i ragazzini stessero là per una forma di esibizionismo, per farsi delle foto, per fare dei video e per metterli su YouTube o su Instagram. Si sa certamente che questo è un gioco che sta riguardando purtroppo sempre più persone in giro per l'Italia. Ci sono state 2 vittime l'anno scorso, appunto protagoniste di questo gioco. Vogliamo provare a sentire che cosa succede, che cosa si trova in rete? Però vediamo come sopravvive. Sì, per arrivare a notte a casa vostra. Vieni. Ma chi sei tu? Ma chi sei? Okay. E sono audio che arrivano da varie parti d'Italia, in questo caso da un luogo imprecisato nel sud, probabilmente nel napoletano, di un gruppo di ragazzini, con uno di questi ragazzini veramente piccolo, avrà 11-12 anni, che appunto va sui binari. E poi girano anche cose più complesse come queste. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo sui binari praticamente. Quindi se passa un treno dobbiamo spostarci all'istante. Abbiamo raggiunto il 10° episodio e volevo fare qualcosa di diverso e di speciale, come avete già. Qualcosa di diverso e di speciale. Barbara Caccia, vice questore aggiunto della Polizia Ferroviaria, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, noi registriamo innanzitutto questo, che il numero di vittime da investimento nell'arco del 2016 è cresciuto molto, più 47%, sono in totale 72 vittime, quindi i numeri assoluti non sono enormi, però ci sono, no, oggettivamente, e abbiamo un paio di casi appunto di ragazzini che per esibizionismo, per altri motivi, anche per sfida, no Caccia, mi sembra di capire, decidono di fare cose di questo genere, no? Sì, effettivamente si tratta di un fenomeno in aumento, quello delle cosiddette bravate o dei giochi pericolosi sono, diciamo, in aumento soprattutto nell'ultimo periodo. Lo scorso anno abbiamo registrato oltre 10 episodi rispetto all'anno precedente, in cui avevamo rilevato solamente un paio di situazioni di questo genere. Purtroppo, ecco, lo scorso anno abbiamo registrato le prime vittime in questo senso, cioè di ragazzi appunto che, diciamo, volontariamente si espongono al pericolo. Sì, ci sono anche immagini che girano, addirittura riprese dalla polizia, che poi ha fermato alcuni di questi ragazzi. Sì. Ricordo che, se non erro l'anno scorso, a Milano erano state prese le persone che, sì, ballavano sui binari vicino alla stazione centrale, no? Sì, esattamente, erano 4 ragazzi che pensavano di realizzare un improbabile video rap in quella circostanza. Poi c'è stato anche un episodio a Perugia in cui un ragazzo, un adolescente, aveva scommesso con un suo amico 5 euro per 5 euro di rimanere sui binari fino all'arrivo del treno. E in quel caso, per fortuna, diciamo, la nostra pattuglia se n'è accorta e l'ha portato via dalla sede ferroviaria poco prima dell'arrivo del treno. Allora, qualche ascoltatore ci dice: non ne parlate via WhatsApp, non ne parlate è peggio. In realtà ne parliamo proprio perché c'è una vittima e ci sono state altre due vittime, e secondo me facciamo bene a parlarne esattamente per questo, per ricordare a chi si esibisce in questo modo, a chi prova ad esibirsi in questo modo, che in questo modo si muore, Caccia, no? Allora, dobbiamo dire che la circolazione di questo tipo di immagini sicuramente ha un effetto di emulazione. Noi cerchiamo veramente in tutti i modi di poter contrastare, sia diciamo con dei controlli, abbiamo fatto delle giornate specifiche, le cosiddette Rail Safe Day, proprio contro, per prevenire e contrastare questi comportamenti anomali. Nel 2017 ne abbiamo organizzate già due, con circa 2600 operatori impegnati, oltre 4000 controlli in punti sensibili della linea ferroviaria e circa 240 sanzioni contestate. Però la vera sfida in realtà è in termini di prevenzione, cioè dobbiamo intervenire da un punto di vista culturale rispetto ai ragazzi. Per questo da circa 3 anni andiamo nelle scuole, c'è un progetto che è denominato Train to be Cool, in cui ovviamente train ha un doppio senso, cioè treno, ma anche di allenarsi, cioè bisogna informarsi, cioè conoscere quello che sono i pericoli dell'ambiente ferroviario per poter prevenire ogni rischio. E poi oltre questo abbiamo delle diverse iniziative di piazza che portiamo avanti un po' in tutta Italia, con le federazioni sportive, il supporto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che fino ad ora ci hanno consentito di raggiungere circa 170.000 ragazzi. Ancora qua, vedo molti ascoltatori che ci scrivono su questo, dice: so che lo fate in modo positivo, ma così fate pubblicità a queste bravate, otterrete l'effetto contrario e spingete i ragazzi ad avere questo tipo di visibilità. Ma io non mi sembra, innanzitutto ovviamente questi ragazzi sono ragazzi che girano su internet, e quindi se vogliono trovarsi questi video, se li trovano, non lo so, io ho un figlio di 12 anni, passa molto più tempo su YouTube che davanti alla televisione, e no, quindi no. Mi permetto di dire che in alcuni casi abbiamo anche rilevato che si trattava di alcuni fake, ma al di là di questo, quello che noi vogliamo spiegare, cioè la campagna informativa che portiamo avanti, è che per far capire ai ragazzi, che spesso in realtà invece non conoscono i pericoli del treno, non li conoscono nemmeno gli adulti, se vogliamo dirla tutta, perché spesso le vittime sono anche persone di 40-50 anni, e che magari ritengono naturale attraversare i binari, o piuttosto anche con l'utilizzo dello smartphone che ormai ci assorbe quasi completamente, quindi o con le cuffiette, quindi in questa sorta di effetto di isolamento, per cui sapere che un treno che è lanciato a 300 km orari impiega 4 km per fermarsi è un'informazione che non tutti sanno. Noi siamo abituati a ragionare con la macchina, in cui l'autista vede il pericolo, aziona il freno ma può anche sterzare, il macchinista non può farlo, quindi individua l'ostacolo, diciamo così, tira diciamo il freno d'emergenza, se sta andando a 120 all'ora, ed ogni regionale va a 120 all'ora, potremmo dire, cioè raggiunge queste velocità, impiega 1 chilometro per fermarsi. Quindi a quel punto non c'è più niente da fare, evidentemente. Per farsi veramente il segno della croce e sperare. Senta, ci scrive un altro ascoltatore. Allora, qualcuno ci dice che è vittima anche chi guidava il treno, perché non si può neanche immaginare come si sente un macchinista nel momento nel quale gli succede qualcosa di questo genere, non solo per i ragazzini, ma anche in altri casi, come nei casi dei suicidi. E ci scrive qualche ascoltatore se fate qualche azione in rete da questo punto di vista, cioè ci dice: ma perché la polizia non denuncia chiunque pubblichi certi video? Si può fare un'azione in rete? Non so se si possono denunciare dei dodicenni, però insomma qualche azione in rete forse si può fare. Allora, noi abbiamo comunque un monitoraggio, non solo nostro ma anche da parte della polizia postale, su questo tipo di comportamenti. Normalmente se riusciamo, cosa che è già successa in passato, insomma, se riuscite ad individuare dei gruppetti, ovviamente applichiamo a quello che la normativa prevede, nella migliore delle ipotesi è una multa di oltre 500 euro. E per quanto riguarda i macchinisti invece le posso confermare che è un trauma veramente forte, particolarmente ieri, tanto per dire, i macchinisti erano convinti di aver travolto tutti e tre i ragazzi, ed erano veramente fortemente scioccati. Certo. La ringrazio, grazie a Barbara Caccia, vicequestore aggiunto della Polizia Ferroviaria. Il dibattito, se ne dobbiamo parlare di queste cose oppure no, è aperto. Qualcun altro ci dice, magari non sono i ragazzi che ascoltano, ascoltano i genitori, e questo è un bene, perché così si rendono anche conto di quali pericoli e di a quali pericoli possono andare incontro. Chi invece insulta i ragazzini, secondo me in qualche modo sbaglia, perché non si rende conto, non si ricorda di come era lui a 13 o 14 anni. Ne abbiamo già parlato e ci ritorneremo. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo. Il nostro giro per l'Italia riparte dall'Umbria. Ieri avevamo lasciato in sospeso il nostro sindaco di Preci per capire come vanno le cose post terremoto. Oggi lo recuperiamo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Al Consiglio europeo è scontro sulla riconferma del presidente, il polacco Tusk, il suo paese è contrario, favorevoli molti altri. L'attesa per la Banca Centrale Europea oggi potrebbe annunciare una riduzione degli stimoli monetari. Pressioni su questo fronte arrivano dalla Germania. François Hollande starebbe pensando a ricandidarsi in extremis, intanto nei sondaggi Macron supera la Le Pen anche al primo turno. Abusi su una bambina, 17 anni per la sentenza definitiva, ma lei nel frattempo si è tolta la vita e il colpevole è tornato nel suo paese. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Solo un paio di spunti. Innanzitutto, perdonerete il piccolo errore della collega Eleonora Michele, ce lo fa notare qualche ascoltatore via SMS, che ha parlato di iPhone 7, ma in realtà l'iPhone 7 è già bello che è uscito. Si parla dell'iPhone 7S o dell'iPhone 8, parlando appunto dell'andamento del settore in generale dei microchip. E infine all'ascoltatore via WhatsApp, che sul tema dei 13enni che vanno sui binari, 13-14enni che vanno sui binari, dice basta con questa deresponsabilizzazione. Guarda che qua non si deresponsabilizza nessuno, si dice semplicemente che a 13, 14 anni, 15 anni si fanno un sacco di scemenze, può capitare che si facciano, bisogna fare in modo che queste scemenze, che abbiamo fatto tutti, perché tutti abbiamo fatto scemenze a quell'età, che queste scemenze non siano dannose per loro, e spiegare, cercare di farglielo capire bene, almeno questa è la mia idea, ma insomma magari sbaglio io. Pietro Bellini, sindaco di Preci, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Allora, siamo in Umbria e siamo nel nostro giro che prosegue tra i paesi colpiti dal terremoto, tra le città colpite dal terremoto. Stiamo andando avanti appunto sentendo per il momento i sindaci, poi nei prossimi giorni proseguiremo e allargheremo lo sguardo, parleremo anche dei comuni meno direttamente colpiti che stanno soffrendo per una situazione commerciale di svuotamento turistico devastante, parleremo anche con gli albergatori della costa che hanno anche loro i loro problemi perché stanno ospitando gli sfollati. L'accordo è fino a dicembre, e però adesso parte una stagione turistica e quindi si ritrovano a non poter accogliere i turisti. Come vedete, un problema complessivo che riguarda una bella fetta di questo paese. Però intanto restiamo su Preci e sindaco, ci dica come vanno le cose. Ma le sue premesse purtroppo sono Preci un po' leggermente diverse, nel in quanto noi abbiamo la fortuna di aver sistemato, alloggiato tutti i nostri terremotati all'interno dell'area del comune, quindi non abbiamo persone che sono andate verso il mare o quant'altro. E quindi qui abbiamo trovato luogo perché si sono sistemati con le autonome sistemazioni, quindi sì. Autonome sistemazioni intendo hanno trovato qualche abitazione vicino Preci nella parte, diciamo, del territorio meno colpita, dove la ricostruzione ha retto molto bene. Quindi e parliamo, quando parla di ricostruzione parla di quella post 97, dopo il sisma del 97, esattamente, certo. Quella del 97 che si era conclusa, possiamo dire, manco definitivamente tutta in questo periodo proprio, dove è giunto il nuovo sisma. Quindi una parte di questi, una parte sono alloggiati presso i bungalow di un agriturismo sempre in zona, in attesa di avere le SAE che abbiamo già ordinato, stanno facendo il progetto per la realizzazione. E che tempi, ecco, che tempi si prevedono da questo punto di vista, Sindaco? Penso un paio di mesi sicuramente per realizzare queste SAE e consegnarle. Tenete presente, cari ascoltatori, quando parliamo di Preci, parliamo, diciamo, siamo sempre là, al confine tra Marche e Umbria, a ridosso del Parco dei Monti Sibillini, nell'area, diciamo, per dirvela larga e per farvi capire, Castel Sant'Angelo sul Nera è a due passi, che è stato l'epicentro di uno dei tanti sismi che hanno colpito il centro Italia, e però mi sembra di capire, Sindaco, che evidentemente una ricostruzione fatta bene nel 97 abbia consentito di limitare fortemente i danni. Sì, questo senza dubbio è l'elemento importante da dove ripartire, perché il mio comune, come giustamente lei diceva, ci troviamo proprio in una zona al limite, noi confiniamo con Norcia, con le Marche, Visso, Castel Sant'Angelo, quindi siamo vicinissimi agli epicentri. Quindi il mio territorio è stato colpito in parte nei fabbricati che non erano stati oggetto di ricostruzione. I fabbricati oggetto di ricostruzione vicino all'epicentro hanno subito danni, ma non sono crollati, quindi questo è l'elemento importante. Più lontano dall'epicentro hanno invece reagito molto bene, ripeto, una parte di patrimonio edilizio è intatto. Quante persone avete fuori casa complessivamente? Ma in questo momento siamo intorno alle 200 e qualcosa, che sono alloggiati presso strutture così come le dicevo prima. Complessivamente, appunto, questa è la cifra. Anche qua, ultima domanda che le faccio riguarda quali prospettive si aprono per i prossimi mesi, perché appunto voi siete comunque a ridosso dei Monti Sibillini, è un'area a vocazione turistica piuttosto forte, vorrei capire come la vedete e come prospettate le prossime settimane, i prossimi mesi. Beh, fermo restando dalla situazione di emergenza, che ripeto abbiamo gestito abbastanza bene grazie a queste strutture, e avendo da qui a due mesi, speriamo, le SAE senza intoppi particolari, stiamo già pensando ad uscire fuori dalla emergenza per guardare avanti, perché vogliamo riprendere la vita quotidiana prima possibile e uscire fuori da questo da questa idea di terremoto, perché sta un po' minando anche, no, le persone dal punto di vista psicologico e quant'altro. Allora, quindi stiamo pensando alla stagione, possiamo dire turistica, anche se in modo particolare, perché non abbiamo più la recettività di prima. Però stiamo cercando di utilizzare il territorio, la parte del territorio, iniziative speciali. Quali noi eravamo inseriti, come la manifestazione dei prodotti tipici, pane, prosciutto e fantasia, oppure tradizioni di maggio che in accordo che, già con la regione... Che volete cercare di conservare. Guardi Bellini, io devo veramente chiudere, sennò Valeria Bernardi all'altra parte del vetro mi toglie la linea completamente. Grazie Pietro Bellini, sindaco di Preci, per essere stato con noi. Continuiamo a seguire le vicende del terremoto. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.